Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Frenata è la parola che ricorre un po' in tutti i titoli di commento a Parma-Inter. In effetti il Parma veniva da 5 sconfitte nelle ultime 6 giornate e ha dovuto giocare in 10 contro 11 gli ultimi 20 minuti, eppure è riuscito per l'appunto a frenare l'Inter capolista. Come? Lo ricostruiamo attraverso le parole dell'allenatore parmigiano Guidolin. Abbiamo creato le nostre situazioni, credo che il pareggio sia giusto ed è un punto che ci dà orgoglio, che ci dà morale, perché veniamo da un periodo difficilissimo nel quale non raccogliere niente dopo un 4 mesi sicuramente ci ha messo un po' di incertezza, ma la squadra ha risposto bene. L'Inter ha una batteria di saltatori che mette in apprensione tutto il mondo, secondo me, e cerca di sfruttarle al meglio. Per cui aver preso questo gol oggi, secondo me, mi dispiace, perché io speravo anche di vincerla la partita, ma sono comunque contento del risultato e della prestazione dei miei giocatori. Sono altri gol su palla ferma che dovevamo evitare. Ci siamo riorganizzati subito bene e i ragazzi hanno svolto un grande lavoro. Ma noi quando siamo così difficilmente sbagliamo la partita, possiamo non vincerla e anche perderla, ma noi quando andiamo a queste velocità facciamo sempre bene, abbiamo sempre fatto bene. Buona prestazione in effetti quella del Parma in una serata che si annunciava molto difficile, che invece avete sentito Guidolin ha portato, dopo un primo tempo di sofferenza, ha portato addirittura il Parma vicino alla vittoria, anche se indubbiamente il pareggio finale è il risultato più giusto, pareggio il cui artefice principale è stato probabilmente il portiere del Parma, soprattutto nella prima parte della gara, quando l'Inter è riuscita un po' di più a fare l'Inter. Sentiamo il portiere parmigiano per l'appunto, Mirante. Primo tempo diciamo che siamo stati un po' scossi, se si può dire così, dai primi 10 minuti in cui l'Inter ha avuto 3 o 4 occasioni. Poi dopo ci siamo messi bene in campo, ci siamo posizionati bene, abbiamo cominciato a fare il nostro gioco, siamo ripartiti sempre e nel secondo tempo abbiamo trovato il gol. Peccato che ci abbiano raggiunto subito dopo 4 minuti, è un vero peccato, però sinceramente penso sia un pareggio giusto. Questa era l'opinione di Mirante. Per l'Inter è stato determinante l'ingresso di Balotelli. 2 minuti gli sono bastati per entrare nel tabellino innanzitutto, ma in ogni caso per firmare il pareggio della sua squadra. 2 minuti dopo esattamente la sostituzione. Ha parlato nel dopopartita anche Balotelli, ascoltiamolo. Sono contento, dai, per questo gol sicuramente, però potevo farne un altro e potevamo vincere. Vabbè, mica abbiamo perso, era una partita difficile, loro sono bravi e a questo punto è stato bene anche un pareggio e non abbiamo perso, però si poteva anche vincere, nessuna ruggine, ci sono, diciamo, screzi a volte, sì, che non so, io vorrei sempre giocare e quando vengo tirato fuori o magari non gioco un po' ci soffro, però nel calcio va bene. E questa era la voce di Balotelli. Ce ne sono altre da ascoltare, tra poco sentirò anche le vostre, i vostri interventi di consueto all'800 24 00 24, che oggi anticiperemo un po', capovolgiamo un pochino il programma della scaletta, perché poi dopo l'intervallo per i mercati alle 14.30 avremo due ospiti particolari, avremo una specie di consiglio di famiglia sul Napoli con il direttore sportivo del Napoli Riccardo Bigon e con l'allenatore dell'ultimo scudetto del Napoli, che è suo padre, che è Alberto Bigon. Abbiamo sentito Balotelli, abbiamo altre voci, vi dicevo, sulla partita, ma adesso credo che potremmo invece spostarci di pochissimo, perché poi in realtà questa conferenza stampa di Capello, di cui adesso vi do conto, si è effettuata a Parma ieri e Parma ieri è stata davvero la capitale del calcio italiano. Ha rifatto rumore la conferenza stampa di Capello a Parma, perché ha ribadito alcuni concetti che già non erano risultati particolarmente graditi al palazzo o ai palazzi nella prima occasione. Sentiamo. Il vivere il calcio in una maniera diversa, il vivere il calcio con le famiglie che vanno allo stadio con i bambini, devo dire che è una cosa bellissima, una cosa che ti fa piacere e ti inorgoglisce. È un vero peccato, purtroppo, e abbiamo visto l'ultima domenica, che in Italia invece le cose non stanno andando come dovrebbero andare. E spero che al più presto, visto che ci candideremo per gli europei e speriamo di ricevere l'organizzazione per il 2016, con la ristrutturazione degli stadi, che dovrebbero, speriamo, diventeranno di proprietà delle società, e con la security potrà migliorare proprio la sicurezza per tutti quanti. Già, dovrebbe. Gran gol e bell'accento di Mario, di Mario Balotelli, scrive Fabio in un messaggio. Fabio è certamente bresciano, perché per apprezzare l'accento di Balotelli credo che occorra un discreto tasso di brescianità. Torniamo allora alla partita di ieri sera. Ascoltiamo ancora un commento, che è quello del presidente dell'Inter, Di Moratti, su questa partita. È stato un buon pareggio, è stato un buon risultato in un campo tradizionalmente difficile, e quindi non l'ho presa male, non penso che nessuno l'abbia presa male dell'interista. Ho visto giocare bene anche tante altre volte, insomma. È difficile ammetterlo con un allenatore straniero, sto fatto, però capita anche a loro. No, credo che l'Inter sia concreta, poi dopo ogni partita è difficile, la Champions in particolar modo. Vigilia di un sacco di partite interessanti, tra cui certamente Juventus-Genoa, vigilia che la stampa ha anticipato con un'intervista a Giampiero Gasperini, l'allenatore del Genoa da 4 anni. Bene, qualche frammento di questa intervista realizzata a Gasperini e a Fabio Vergnano, della stampa per l'appunto, lascia intendere che non tutto fila più per il giusto verso tra il Genoa e Gasperini, e tra Gasperini e il Genoa, come d'altra parte si era intuito. Domanda: Gasperini, sono quasi 4 anni che lei allena il Genoa, ma la sensazione è che se arrivasse l'offerta giusta potrebbe anche chiedere a Preziosi e via libera, è giusto? Ma prima di tutto serve una squadra che mi voglia, è la risposta di Gasperini. A Genova i risultati non sono mancati, anche se questa è un'annata molto particolare, facciamo fatica a tenere il passo, eccetera eccetera. Domanda successiva: con il presidente c'è sempre lo stesso feeling e lo stipendio corre, ma un po' in ritardo come l'80% delle società, ma arriva. C'era un allenatore, incalza l'intervistatore, manager, il famoso Gasperson, era il soprannome di Gasperini fino alla scorsa stagione al Genoa. Lei lo conosce? Guardi, all'inizio della stagione ho detto che quel tipo di allenatore non esisteva più a Genova. Oggi alleno e cerco di fare il meglio, a ognuno i propri compiti. Ma se fosse ripeso da me, giovani come Radu, Ranocchia, Bonucci, Acquafresca, che adesso è tornato, sarebbero rimasti qui e forse ci saremmo divertiti di più. Credo che, insomma, se Gasperini è uno abituato a parlare in modo franco, non è certamente la prima volta, ma insomma credo che questi siano segnali abbastanza significativi. I primi ascoltatori di oggi: Angelo dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno Gigi. Buongiorno. Senta, ho sentito prima l'intervista a Mario Balotelli. Sì. Dicevo appunto alla segretaria che è uno schiaffo morale a tutti i razzisti del mondo. Sono felicissimo di averlo sentito, con quel bergamasco bresciano. Adesso bresciano. È sì. uno spettacolo veramente sentirlo parlare, e poi lui è con questo appunto accento da uno schiaffo a tutti i razzisti del mondo, e quindi sono contento che esista uno come Balotelli, a prescindere dalle sue cose al di fuori nell'ambito tecnico-tattico che non mi riguardano. Un'altra invece annotazione: io sono tifoso della Lazio e faccio un in bocca al lupo, che ne avrà tanto bisogno, ai Birea, però sono un tifoso di quelli che non vanno a fare quelle porcherie becere che hanno fatto i tanti tifosi, compresi quelli della mia squadra. Sono un tifoso che ama la sua squadra per come è e non per come dovrebbe essere. Ma infatti, con tutte le sue contraddizioni. Infatti è tutto da dimostrare che quelli che si comportano a quella maniera siano tifosi, no? Si autoproclamano tali, ma in realtà poi hanno ben altro, no? Forse anche nel DNA, ma certamente mirano ad altro che non ai successi della loro squadra. E non c'è una frenata, visto che è così un po' il leitmotiv di oggi, no? Se riferito all'Inter, c'è una frenata ancora più netta da parte del Chelsea. Cioè, si è giocato un turno infrasettimanale di campionato in Inghilterra. Il Manchester ha soltanto pareggiato sul campo dell'Aston Villa, ma insomma, un campo un campo molto difficile, e è rimasta anche l'inferiorità numerica e comunque si è recavata contro l'Aston Villa. Ha perso invece il Chelsea, che pure era andato in vantaggio con Malouda, e poi si è fatto rimontare e battere da una doppietta di Saha. E certamente questo è un piccolo segnale d'allarme per la squadra di Ancelotti. Ormai mancano 2 settimane al confronto diretto di Coppa dei Campioni a San Siro, e non c'è dubbio che, insomma, che qualcosina, che la sconfitta di ieri sera segnali qualche scricchiolio nello squadrone londinese. Un'altra squadra londinese invece insomma, ha tratto il massimo vantaggio dal turno infrasettimanale, ed è quella di Zola. È il West Ham, che grazie anche a un gol di Diamanti, del livornese Diamanti, è riuscita a vincere una partita molto, molto difficile, e a risalire in classifica. Miracolosamente, se il campionato finisse in questo momento, il West Ham sarebbe salvo. Poi certo la battaglia sarà ancora molto lunga, perché sul fondo ci sono almeno 8 squadre che stanno lottando per la salvezza. Michele ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Granzini, io la sento pianissimo, non so se è il mio telefono. Comunque intanto le vorrei chiedere se ha mai pensato di fare stage per allenare conduttori radiofonici, visto che veramente... No, Michele, grazie. No, io la chiamo per un altro motivo, chiamo per questo fenomeno ultras. Ma prima però vorrei dire un'altra cosa. Ieri ho sentito che oggi si sarebbe messo in contatto con Bigon. Sì. Ecco, io vivo a Roma da 20 anni, ma sono ferrarese di origine, quindi insomma mi sono ricordato i vecchi tempi in cui mio padre mi portava allo stadio, lo Spalla era in Serie A, nel 67-68, l'ultimo anno di Serie A, insieme a Bigon ci giocava un certo Fabio Capello. E insomma, anche se la Spalla è da molti anni che non è più in Serie A, però ho una certa soddisfazione nel vedere che i calciatori che sono passati in quella società si sono poi affermati come allenatori, perché oltre a Bigone e a Capello parlo di Bagnoli, Delleri, Cavasini, Reia, eccetera. Credo anche di Reia, sì, difatti. Ne volevo dire solo questo, io non voglio fare polemica oltre, perché insomma ci sarebbe da parlare veramente molto. Vorrei segnalare agli ascoltatori 2 libri che sono usciti l'anno scorso. Uno è di Carlo Bonini, si chiama ACAB, acronimo di All Cops Are Bastard, che è usato spesso da moltissime, chiamiamole, tifoserie, e parla di gruppi che io personalmente non conoscevo. Un gruppo che si chiama NIS, che significa Niente Incontri Solo Scontri, si capisce benissimo dove può andare a parare. E l'altro si chiama Bande Nere, ed è di un giornalista, Paolo Berizzi, e anche lì ci sono notizie che sono fanno capire un po' il polso della situazione ultra in Italia. Certo, danno uno spaccato. Io sapevo, ad esempio, che ci sono gruppi di, chiamiamoli, tifosi, che si recano all'estero soltanto per avere scontri con tifosi di squadre olandesi, certo, o inglesi. Grazie di queste notazioni, Michele. Andiamo a Bergamo da Ennio, buongiorno. Buongiorno, niente, vorrei parlare un po' del discorso Lazio, no? Noi qua a Bergamo abbiamo l'Atalanta che naviga in brutte acque, premesso che sono simpatizzante dell'Atalanta, tifosissimo della Fiorentina, vabbè, però abbiamo un'Atalanta che naviga in cattive acque, e niente, sentiamo la Lazio che intervengono i politici, Alemanno, Fini, tifosi laziali, doc. Poi quando che la Roma va male interviene D'Alema, tifoso romanista, doc. 300 e qualcosa milioni di debiti di tramite l'Unicredit e tutte queste storie qua. Eppure sono lì che sono tranquille in Serie A. Se fosse capitato a noi una cosa del genere, non solo all'Atalanta ma anche al Siena, tutte le squadre che tutti gli anni devono sudare 7 camicie per salvarsi, se fosse capitato a noi saremmo già spariti dal sistema calcio. Invece qua si intromettono i politici addirittura interpellano Reja, ma cioè io sono scandalizzato da queste cose qua, cioè non è più calcio. Beh, adesso no, non è più calcio. Perché quando si intromette, ormai la tribuna d'onore è solo piena di politici e basta. Sì, no, ma lei ha un'eccellente parte di ragione, adesso non capisco cosa c'entri Reja. Reja è un professionista, gli è stata fatta una proposta di lavoro e lui ha deciso di accettarla. Tra l'altro Reja, a differenza di altre, insomma, Reja è certamente una persona seria, e ne sanno qualcosa a Napoli, per esempio, e se ha accettato è perché aveva il diritto di accettare questo incarico. Che poi ci sia stata magari qualche pressione di troppo o comunque diciamo non perfettamente ortodosso, non normale, no? Non di prassi, questo è anche vero. Diciamo che la prima parte del suo intervento è ampiamente condivisibile, perché affonda le sue radici in trattamenti di favore che non sono certamente inediti nella storia del nostro calcio di club, direi non soltanto recente. Questo è vero. Florian, non lo so, chiamato da Massa Carrara, buongiorno. Buongiorno, Florian, va bene, Florian. Complimenti per la trasmissione. Uh-huh. Io, guardi, ho 26 anni e vivo in Italia da 12 anni, sì. E mi collego un attimo all'intervento dell'ascoltatore di prima, tifoso razziale, che faceva i complimenti a Balotelli per il dialetto bergamasco. Niente, anch'io nel senso sono rimasto stupito di questa cosa qua e del trattamento che riservano a Balotelli in tutti gli stadi, diciamo, a questo punto. E poi una domanda per lei, visto che il Milan, io sono tifoso milanista, secondo me, a mio parere, il rendimento che avrà, pronto? Sì. Non è che può puntare proprio allo scudetto. E questa Roma invece secondo lei può dare fastidio, può continuare così fino alla fine oppure? Ma chi può dirlo? Intanto dipende dall'Inter più che dalla Roma o dal Milan, no? Perché se l'Inter mantiene questo passo, qualunque passo tengano Roma e Milan, mi pare ci sia ben poco da fare. La Roma ha già fatto molto, perché se si pensa alle condizioni in cui era al momento in cui Spalletti se ne andò e a quanta fatica ha fatto Ranieri nei suoi primi tempi per provare a rimettere in piedi la squadra e forse l'intero ambiente, mi pare che già sia stata compiuta un'impresa. Adesso si tratta di vedere quanto dura e molto dipenderà, se ne parlava mi pare ieri o ieri l'altro, anche dalle condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori chiave. Totti, per esempio, l'altra sera è stato sostituito a Firenze perché insomma era palesemente fuori condizione, ha dovuto fare l'ennesima risonanza magnetica, probabilmente salta la partita di sabato. Toni è fuori ancora per almeno 3 partite e insomma queste cose a gioco lungo pesano, perché non sempre ti può andare bene come è andata bene con quell'unico vero guizzo di Vucinic l'altra sera. Però la squadra ha un'anima, una struttura e adesso ha molto entusiasmo. Sono una piazza come quella di Roma ha nell'entusiasmo una delle sue componenti chiave, e la Roma l'ha dimostrato spesso in questi anni, in questo lungo ciclo, con insomma, forse un po' altalenante ma con poche puntate verso il basso e molte verso l'alto. E quindi qualcosa potrà sempre succedere, ma credo non appunto da, ecco, per rispondere alla sua domanda. Dovremmo fare in tempo a sentire ancora Roberto da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, io volevo fare un intervento quanto riguarda gli errori arbitrali, no? Uh-huh. Nel caso, io sono un tifoso del Napoli, faccio il caso di Maggio perché mi viene più facile fare quello lì. Sì. Nel caso che succeda una cosa come quello che è successo a Maggio, però in generale, non si potrebbe fare niente, io dico, cioè non possono fare niente che dopo, guardando in secondo momento le immagini, perché hai già subito una beffa lì a momento sul campo e va bene, però che continua ancora la beffa, che dopo il giocatore deve anche saltare la prossima partita. A me mi sembra che qualcosina si potrebbe fare. La legge, Roberto, può piacere o non piacere, di sicuro è uguale per tutti, quella almeno, e accontentiamoci così, anche se certamente mi rendo conto che non sia che non sia il massimo. Avrete notato nel penultimo messaggio pubblicitario quanti dialetti si incrociavano, quanti echi e quante suggestioni da ogni parte d'Italia. Prima avete sentito un paio di ascoltatori fare i loro complimenti a Balotelli per il suo italiano, io dico per il suo bresciano, ma insomma comunque per questa parlata. Adesso vi aspetta una discreta sorpresa. Perché? Perché parliamo di Napoli e del Napoli con due signori che hanno un accento discretamente e robustamente padovano. Vado in ordine di età e quindi saluto per primo Alberto Bigon. Buongiorno Alberto. Buongiorno Gigi, ciao. Buongiorno, già qualcosina si accende. Secondo me quello di tuo figlio è anche più spiccato. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a voi, ciao Gigi. Vabbè, adesso salterà fuori di più perché lei saluti poi un po'. Dunque, perché questi due signori? Intanto perché Alberto e Riccardo Bigon sono rispettivamente padre e figlio. Perché hanno un filo rosso, anzi un filo azzurro in questo caso, che li lega alla città di Napoli. Lo dico perché parecchi ascoltatori di questa rubrica sì, sono appassionati al calcio, ma magari un pochino alla lontana, e quindi è giusto ricordare loro che il Napoli ha vinto due scudetti nella sua storia, uno nell'87 e uno nel 90 con Alberto Bigon sulla panchina del Napoli. Su quella panchina adesso, non in veste di tecnico, in veste di direttore sportivo, insomma comunque di dirigente asse portante della società, siede il figlio di Alberto Bigon, Riccardo, ripeto, con un altro incarico dirigenziale e operativo, ma pur sempre su quella stessa panchina. Riccardo, hai trovato tracce, anche se a distanza di 20 anni non sarà così facile, hai trovato tracce del passaggio di tuo padre a Napoli? Ma sì, certamente tantissime, però non è una novità per me, perché comunque sia dove vado, dove sono stato prima la regina, ma comunque in ogni campo mi capita di lavorare, poi c'è sempre qualcuno che ha un ricordo legato a papà, che comunque ha lasciato sempre un segno abbastanza importante, comunque sempre sulla stessa linea, cioè tutti quanti mi parlano sempre di questa persona dal grande stile, gentiluomo, insomma adesso mi viene anche un po' da ridere perché sapendo che è lì. Sai che ti sta ascoltando e quindi. Vabbè, lui lo sa, insomma io, per me è un patrimonio da difendere, il cognome che porto, proprio per la responsabilità che comunque mi sento addosso di proteggere una fama che lui ha seminato in tanti anni di duro lavoro e che riscontro continuamente, ovunque io vada, poi soprattutto qui a Napoli, basta che vado a prendere un caffè da qualche parte e parlano giustamente di lui più che di me, ma è giusto che sia così. Senti Alberto, a parte quel minimo di rossore che a quelli della nostra generazione è difficile sfugga, no? In sentendo parole come queste, anche se sono situazioni che tu conosci, può capitare secondo te che un giorno invece sarai tu ad andare a Napoli e ti parleranno delle prodezze e delle belle cose che ha fatto o sta facendo tuo figlio? Ma io credo proprio che capiterà così, però lasciamo il tempo al tempo, lasciamo che le cose maturino e diciamo che già un inizio molto positivo c'è stato e speriamo che venga confermato il famoso proverbio che il giorno si vede dal mattino. Certo. Senti, Alberto, tu hai fatto qualcosa per dunque tuo figlio Riccardo è stato calciatore, sia pure certamente non del tuo livello. Poi essendo laureato, correggetemi se sbaglio, insomma, ma un minimo credo di conoscere la vostra storia. Nel frattempo si era laureato in giurisprudenza e quindi il suo sbocco successivo di carriera, anziché da allenatore, è stato da dirigente. Tu hai fatto qualcosa per avviarlo al calcio oppure in una famiglia come la tua era automatico provarci? Ma non più di tanto, diciamo che Riccardo stava seguendo un po' la strada dell'avvocatura, era un passo, diciamo, un po' dagli esami dopo aver fatto i 2 anni classici di praticantato, e quindi le colpe e i meriti vanno date al nostro caro amico Lillo Foti, che ha avuto l'idea di chiedere a me e a Riccardo se eravamo interessati, se in fondo se Riccardo era interessato, certo, a intraprendere questa carriera di dirigente sportivo. E certo, quindi la storia di Riccardo, dirigente sportivo, è nata da questo, insomma. Sono queste due città indubbiamente vi legano, no? Prima, e anche perché in tutti e due, per tutti e due è andata cronologicamente così. Prima Reggio Calabria, da allenatore l'uno e da dirigente l'altro, e poi Napoli. Torno da Riccardo Bigon per domandarti. 3 anni con Mazzarri alla regina e in mezzo una prodezza, a parer mio, tra quelle storiche dell'intero dopoguerra, cioè la salvezza di una squadra che era partita da, in teoria, meno 15, poi ridotti a meno 11 punti. Mi sembra che ne faceste 40 e che quindi sareste arrivati con quella squadra settimi assoluti quell'anno a 51 punti se non fosse stato per penalizzazione e in ogni caso salvezza. È da lì che le strade tue di Mazzarri si sono un po' legate o è una deduzione mia? No, beh, quella è un'annata sicuramente che lascia dei segni importanti perché insomma è sotto gli occhi di tutti che è stata un'annata molto particolare. Però sinceramente forse l'anno che ci ha legati di più dal punto di vista professionale, perché poi comunque alla fin fine è prima di tutto insomma un rapporto prettamente professionale, è stato forse il primo, perché comunque era il mio primo anno da dietro la scrivania, perché avevo smesso di giocare a calcio nel mese di maggio precedente a quello che poi sì. Sono stato alla regina ed era il suo primo anno in Serie A dopo la vittoria del campionato a Livorno in Serie B. Quindi comunque ci ritrovavamo tutti e due a Reggio Calabria, comunque in una città distante geograficamente da quelle che erano le nostre provenienze. Certo. E tutti e due senza la famiglia per vari motivi, insomma ci ritrovavamo lì da soli e quindi fu un legame che è nato proprio un po' anche dalla contingenza, cioè il fatto di essere tutti e due la prima esperienza in Serie A e tutti e due lì da soli, quindi è nata al di là della professione magari anche un rapporto più stretto proprio di collaborazione anche extra campo, però poi insomma alla fine è la professione che fa da padrona, perciò è stato un rapporto professionale che è durato 3 anni ed è sfociato poi con quell'ultima stagione importantissima. Ti capita ogni tanto a fine partita ad avere la tentazione di fare un po' da stopper sul tuo amico Mazzarri, vista la sua propensione, no? ad accentare gli episodi, perdendo magari di vista, anche se per carità è comprensibilissimo e umanissimo, perdendo magari un po' di vista il respiro generale di una partita? Ma insomma io lo conosco molto bene e spesso e volentieri lui magari risulta da fuori meno riflessivo, forse più istintivo anche in determinati argomenti tipo questo che stai trattando, però nella realtà dei fatti nel 99% dei casi lui sta calcolando di agire in un certo modo. È un po' diverso quello che appare da quello che forse magari in realtà è, che è un calcolatore veramente tremendo, però bisogna anche dire che sai, poi i caratteri sono caratteri, quindi certo. Io sinceramente dico sempre, faccio abbastanza fatica a pensare alle mie cose, andare a fermare gli altri o a dare consigli agli altri, sinceramente non so nemmeno se sia giusto, insomma io penso che alla fin fine uno per esprimere veramente le proprie potenzialità deve essere se stesso. Deve essere se stesso. Allora, penso che il mister facendo così ha ottenuto quello che ha ottenuto, quindi va bene così. Tu l'altro giorno, se, diciamo che allora hai detto bene, ciascuno deve essere se stesso. Allora mi rivolgo al babbo, a babbo Albertino, e gli leggo queste frasi dette, dunque oggi ne abbiamo 11, e quindi dette 2 giorni fa da tuo figlio, da Riccardo, all'indomani di tutte le proteste e di tutta l'esplosione, diciamo pure, di proteste del Napoli in senso del Napoli, di Napoli in senso arbitrale. Ha detto Riccardo Bigon: non esiste nessun complotto o volontà da parte di terzi di frenare il nostro cammino, questa è la nostra certezza assoluta e lo dico perché conosco personalmente Collina e Nicchi, sono professionisti e hanno ottenuto successi, non ci sono stati complotti strani ai danni del Napoli, ciò non toglie che ci sia stato qualche errore andato a nostro danno, ma noi non abbiamo presentato né presenteremo alcun dossier perché nel calcio gli errori ci possono stare. è proprio è stato leggendo queste parole da un lancio di agenzia che insomma, poi mi sono messo in contatto con voi. Io credo, da uomo di calcio, no, non da padre in questo caso, Alberto, credo che sulla piazza di Napoli parole come queste meritino un voto alto a prescindere. Ma guarda, io ho apprezzato quello che ha detto Riccardo. Mi permetto solo di dire che io non ho avuto la possibilità di conoscere di persona Collina e Nicchi, però ovviamente ho avuto modo di conoscere i capi del settore arbitrale dei tempi passati. Sì. E proprio in occasione di alcune domande, di alcune interviste che mi sono state rivolte dopo Udinese-Napoli, ho avuto modo di dire che in Italia abbiamo una grande classe arbitrale. Forse facendo ovviamente riferimento anche a quella passata. Uh-huh. Se vogliamo metterci a discutere su quello che succede nei campi ogni domenica per quanto riguarda l'arbitraggio, io dico che sbagliamo tutto. Piuttosto ci potremmo mettere a discutere domani a bocce ferme su quelle che sono le assistenze tecnologiche che possiamo dare agli arbitri, sul fatto di mettere un arbitro in più, sul fatto di mettere un dispositivo sulla porta che decida se la palla è dentro o fuori. Questa mi sembra una cosa più sensata da fare. Che no. Discutere gli arbitri per me è assurdo, anche perché, come ho avuto modo di dire un sacco di volte, io ho allenato all'estero, ho girato, ho avuto un sacco di arbitri stranieri, partite internazionali, sia come calciatore che come allenatore, i nostri sono i migliori del mondo. Sono tante le domande per Bigon padre e figlio, e certamente non riuscirò a farvi tutte quello che vorrei dire che alcune me le terrò per una prossima occasione. Alberto, da fuori, questo Napoli può davvero, a parer tuo, arrivare diciamo tra le prime quattro del campionato, che sarebbe un grande traguardo? Ma sarà un compito molto difficile, sarà un obiettivo da perseguire con grande tenacia, con grande determinazione, come del resto stanno già facendo, perché le concorrenti sono temibilissime. Dire che Napoli è quarto significa che una squadra tra Milan, Roma, Juve, Fiorentina, Palermo, Genoa starà fuori da queste quattro. Certo. Quindi il compito è veramente molto molto difficile. Però da quello che ho capito credo ne abbiano adesso, piuttosto che qualche settimana fa, una coscienza, una convinzione maggiore, quantomeno per provarci, anche perché il quinto e il sesto posto non sarebbero comunque da buttare via. No, certo. Senti, ti lascio con, mentre parlo un attimo con Riccardo, ti lascio una domanda su cui rifletti un attimo, cioè quale, tolto Maradona, che poi il Maradona che avresti tu era già un Maradona che, su cui sorvolare, quale dei tuoi giocatori di allora regaleresti al Napoli di oggi? Mentre ci pensi, così almeno al papà Alberto non ci sente. Riccardo, siamo sicuri che tuo padre ha chiuso con la panchina o tu dici che con la posizione che hai trovi ancora il modo di sistemarlo? Sto scherzando, No, questo non lo so, bisognerebbe chiedere a lui, anche se penso insomma che una proposta interessante potrebbe sicuramente fargli gola, però io, mi sembra che lui sia professionista da quando aveva 16 anni. Adesso insomma qualche annetto avevo, quindi penso che il suo l'abbia fatto, poi insomma, nel senso che ha lavorato tanti anni spesso lontano da casa e sotto delle pressioni che sono sotto gli occhi di tutti nel nostro calcio, perciò insomma penso che se volesse meritarsi e godersi un po' di riposo farebbe bene, tutto sommato farebbe bene. Sei d'accordo, Alberto? Sì, diciamo mai dire mai, però insomma la sostanza è questa, via. La sostanza è questa. Hai deciso chi regalare a Riccardo dei tuoi? Sì, ci ho pensato un attimo. Oh. Regalerei il Careca. Ah, va? Avrei scommesso la casa. Perché loro hanno degli attaccanti molto validi che sanno anche eventualmente fare l'esterno, come succede qualche volta a Quagliarella, sì, come eccetera. Quindi un Careca che finalizzi il lavoro di questi attaccanti esterni, chiamiamoli così se vogliamo, certo, sarebbe molto importante, e mi pare che proprio quello in cui stare, su cui sta recriminando Mazzarri ultimamente, è questo pizzico di mancanza di concretezza, certo, dei 16 metri. Certo. Riccardo, siete riusciti a far mente locale, cioè dopo i malumori, dopo anche la rabbia, perché è stata una sconfitta profondamente ingiusta e su questo non c'è dubbio, siete riusciti a canalizzare questo malumore verso la convinzione di aver comunque giocato a Udine una grande partita, a maggior ragione in secondo tempo in 10 contro 11? Ma io spero di sì. Questo è sicuramente stato il nostro intento sin dal primo giorno di allenamento di questa settimana. Tra l'altro, anzi, abbiamo anche, come fa sempre il mister, una cosa che ha fatto lui, è andato anche a rivedere proprio gli errori che sono stati fatti, cioè non solo a dire che abbiamo comunque in 10 probabilmente meritato di vincere la partita, ma che si poteva fare anche meglio, proprio per, certo, far capire alla squadra che vogliamo spostare l'attenzione da quelle che potrebbero essere le polemiche o i possibili alibi sugli errori arbitrali, ma, certo, concentrarci sul fare sempre meglio in campo. Poi se ci riusciremo o no, questo sarà da vedere. Quello è sempre il rischio. Alberto, se si gioca il Napoli di adesso, il Napoli con tuo figlio, e comunque il Napoli con cui tu hai vinto un campionato alla banchina, quando si gioca Napoli-Milan, io penso che tu sia un po' in ambasce, no, da un punto di vista di passione. Ma io sono sempre, un po' tutta la famiglia nostra, se vogliamo, un po' sempre milanista. Sì. È stata, lo è, lo sarà. Però quando c'è di mezzo la Pagnotta, cioè, già nel 90 non ero proprio tanto milanista. Certo. Che discorso. Che discorso. E adesso che c'è Riccardo comunque vicino, insomma, dentro quella panchina, mi dispiace per il Milan, ma no, era in realtà era una curiosità, ma era anche per introdurre il fatto che domenica per Napoli-Inter grandi problemi non ne hai, insomma. No, assolutamente no. Senti Riccardo, ti faccio una domanda che è completamente in contrasto a tutto quello che abbiamo detto sino ad ora, ma è fatta apposta. Ho letto sulle agenzie che per Napoli-Inter è stato designato Rosetti. Credo sia la riprova comunque che trattasi della, non solo del match clou di domenica, ma di una partita da trattare con i guanti da tutti i punti di vista. Io me l'aspettavo, perché comunque mi sarei aspettato probabilmente il migliore o uno dei migliori, insomma, visto che Rizzoli ha fatto l'Inter domenica scorsa, insomma, rimaneva Rosetti o forse un altro, ma non molti di più, perciò ritengo che Rosetti sia una grandissima garanzia quando impegni così importanti richiedono la sua attenzione. Non molto molto difficile che sbagli l'appuntamento, perciò insomma un arbitro che ci dà ampie garanzie, non ho nessun dubbio, nessun problema a riguardo. In bocca al lupo e grazie a tutti e due. Posso approfittare un attimo, sì, della tua bontà per dare il bentornato in Italia al nostro amico Edi Reia e augurargli, ecco, buon lavoro. Ecco, questo è molto... visto che si parla di Napoli e di Amarcord, mi sembra che ci sia tutto. Insomma. Questo è molto bello, la solidarietà tra gli uomini, solidarietà, l'affetto tra gli uomini di campo, tra gli uomini del nord-est. Alberto, anche tra gli ex compagni di squadra, avete giocato insieme a Ferrara voi? Esatto, quindi siamo amici. Sì, quando Annibale transitava con gli elefanti, noi giocavate insieme nella spalla. Trattasi tra l'altro anche di grande signore che ha lasciato a Napoli ampie tracce. Tornerò a disturbarvi se mi autorizzate. Se volentieri, Gigi, un abbraccio, a presto. A tutti e due, grazie. Erano Alberto e Riccardo Bigon collegati con noi. C'è un ascoltatore che ha chiesto di intervenire. Il tempo non insomma, comincia a essere un pochino tiranno, ma ci dovrebbe stare. Prima però l'appuntamento dell'11 febbraio con Nicola Filippone. Sembra ieri. 11 febbraio 1973. Al 23esimo di Juventus-Lazio, Dino Zoff infrange il record di imbattibilità in campionato che aveva fissato Mario Dapozzo tra i pari del Genoa nel 1964. Da Pozzo non aveva subito gol per 791 minuti. Sarà Gianni Rivera, sul rigore, la domenica successiva, a interrompere la striscia di imbattibilità di Zoff, fissandola a 903 minuti. Il record del portiere friulano resisterà fino al 1994, quando il milanista Sebastiano Rossi alzerà l'asticella a 929 minuti. Peccato, peccato che fosse l'11 febbraio, se era ieri, se era il 10, l'avremmo letta a Dino Zoff, che era qua con noi in diretta. Franco, chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di avermi dato questa possibilità. Volevo solo cogliere l'occasione, io ho 45 anni e quando da bambino non c'era la televisione, non si vedeva mai il calcio, tutto il calcio, da bambino, attorno ai 10 anni, ho visto Bigon fare gol dal calcio d'angolo. Per me è rimasta una delle più grandi magie, più di Harry Potter e di qualunque altra cosa successivamente da adulto uno abbia potuto vedere. Magia da Harry Potter. Spero che Alberto non abbia spento la radio e abbia sentito questo suo ricordo, di cui la ringrazio. Niente, siamo arrivati alla conclusione anche oggi. C'erano alcune altre notizie, per esempio squalificato Vagliani dopo l'espulsione di ieri sera in Parma-Inter, ma era automatica. C'erano altre domande per Bigon padre e figlio. Ci sarà, avete sentito, una prossima occasione. Per il momento grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione. Vi ricordo l'indirizzo www.radio24.it e il nuovo sito di Radio 24, dove potete riascoltare qualsiasi questa puntata, qualsiasi altro programma, in tutto o in parte della nostra giornata radiofonica. Buon pomeriggio.